riferire almeno 5 motivi per i quali una donna vestita da sposa scende da un tram. Riferire almeno 5 conseguenze che si verificherebbero se le autovetture andassero a sapone. Eccoci qua in linea con noi. Io ho chiamato un amico che è molto creativo e in linea con noi abbiamo Eugenio Finardi. Ciao Eugenio. Ciao. Io ho pensato che tu che sei cresciuto immerso nella musica. La musica, come ci ha spiegato tante volte il professor Perna, è veramente un integratore eccezionale per il cervello. Tu hai una mamma cantante lirica. Sì, io sono nato in uno strumento musicale. Tu sei nato, è vero, me l'avevi detto una volta, è vero, tu sei nato in uno strumento musicale. Ho pensato, vorrei parlare con lui di musica, di quanto sia importante suonare la musica e ascoltare la musica per il nostro cervello, ma già che c'ero ho pensato, perché non chiedere a Eugenio Finardi una risposta a uno dei nostri test della donna vestita da sposa o delle macchine che vanno a sapone? Mm-hmm. Beh, io scelgo la donna che è vestita da sposa. 5 buoni motivi per i quali può scendere da un tram? È figlia di un tranviere, per cui viene accompagnata di un glorioso, diciamo, anziano tranviere che la accompagna con il mezzo che la accompagna, insomma, che le ha dato in fondo da vivere per tutta la vita al suo matrimonio. L'altra è invece che sia scappata dal retro della chiesa per non sposarsi o del municipio e sia salita sul primo mezzo a disposizione, in quel caso un bel... A Milano i tram si chiamano, come si chiamano quelli, Sirietto, sale su un bel Sirietto e se ne va. E la terza è che ci sia una sfilata di moda ambientata, come spesso succede a Milano, in luoghi strani, per cui in un deposito tranviario, per cui alla fine la sposa scende da, siccome le sfilate di moda finiscono di solito con l'abito da sposa, finisce con un tram tutto bianco che fa scendere queste spose. La quarta? Ne ho fatte 3. Ma bravo, però il professore la quarta è che lei stessa sia una tranviera, che quindi possa abbia scelto e si sposi con un tranviere, quindi abbiano scelto il tema del tram e tutte queste cose. E la quarta è che per via dell'area C è bloccato il centro, per cui nemmeno le macchine di lusso, cioè un'area C veramente drastica, per cui anche le spose sono costrette ad andare in tram. La cosa più bella è che lo sarebbero anche i consiglieri comunali, gli assessori eccetera eccetera eccetera eccetera.